Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Oggi parleremo di etichette, le etichette sui cibi, anche di riflesso a quanto successo a Bruxelles e a Strasburgo nei giorni scorsi, perché appunto era stata proposta una disposizione che riguardava il semaforo sui cibi, quindi colori per indicare grassi, zuccheri e sale. Poi all'improvviso questa disposizione, che sembrava avesse i consensi di molti, all'improvviso ci sono stati dei grandi voltafaccia e tutto è stato rimesso in discussione. Però di positivo cosa c'è? C'è di positivo che il Parlamento ha deciso di estendere l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti. Attualmente, io lo vorrei ricordare, esso vale solo per carne, miele e olio d'oliva, e in futuro appunto si dovrebbe applicare a tutti i tipi di carne, pollame, ai prodotti lattiero-caseari e a quelli a base di un unico ingrediente come la passata di pomodoro. Poi vedremo anche il perché di queste motivazioni. Diciamo che è successo un po' di tutto. Perché? Perché alcuni gruppi parlamentari all'improvviso hanno deciso di votare contro il semaforo sui cibi. Ci sono stati solamente 3 parlamentari italiani che hanno votato a favore, di 3 schieramenti completamente diversi. Bene, questa è un po' la cronistoria, ma ora entriamo veramente nel vivo di questa puntata. Ricordo, numero verde 800 24 00 24 per chi volesse intervenire e avere anche dei chiarimenti, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, cominciamo questo giro di esperti da Claudio Lucchetta, che appartiene alla Adiconsum, è un esperto della Adiconsum, al quale io vorrei immediatamente chiedere che cosa ne pensa di questa bocciatura sul semaforo sui cibi e invece dell'altro provvedimento che potrebbe partire, di estendere a tutte le etichette, di mettere l'origine dei prodotti. Buongiorno Lucchetta. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Io che dire, cioè, per quanto riguarda i semafori siamo stati contrari sin dall'inizio, forse un po' in controtendenza anche con altre associazioni consumatori, però il discorso è che siamo sempre stati dell'avviso che nessun alimento è buono o cattivo a priori, bisogna comunque inserirlo in un'alimentazione equilibrata e di conseguenza si può tranquillamente consumare qualsiasi genere di prodotto. Questo tipo di informazione fatta con un bollino colorato non è un'informazione asettica, insomma colpisce emozionalmente, quindi fa immediatamente catalogare un prodotto come buono o cattivo a prescindere, e quindi appunto essendo un'informazione troppo drastica e creando problemi, poi perché sicuramente avrebbe danneggiato alcuni prodotti e favorito altri, ma anche ingiustamente, ci siamo schierati in maniera contraria fin dall'inizio. Mentre, ecco, poi c'è un altro aspetto. Rimanga con noi che ora abbiamo già un radioascoltatore, poi continuiamo. Lino da Genova, buongiorno Lino. Buongiorno a tutti. Senta, come ho detto allo staff, io intervenivo sul discorso che prima di tutto bisogna che queste etichette siano fruibili. Mi riferivo in particolare a una nota catena di low cost che, scrivendo in moltissime lingue le etichette, diventano in caratteri talmente piccoli che sono difficilmente leggibili, specialmente da persone anziane. Io ho 63 anni, ci vedo ancora discretamente bene, mi porto sempre gli occhiali da legge, però insomma con notevoli difficoltà. Bene. Non solo, ci sono anche altre, generalmente altre etichette che sono scritte in colori magari neri, però su degli sfondi viola, blu, eccetera, per cui anche se i caratteri sono di dimensione più leggibile diventa difficile. Bene, grazie. Scrivete più scuro e leggerete più chiaro. Bene, grazie Lino da Genova, abbiamo capito cosa voleva significarci. Io ricordo numero verde 800 24 00 24. A lei Lucchetta, ha sentito questa domanda di questo radioascoltatore? Non benissimo, perché la prima parte la sentivo un po' disturbata. Comunque... Beh, parlava appunto di etichette illeggibili perché scritte molto, molto in piccolo e addirittura molte volte in più lingue, quindi per rendere confusione al consumatore. Sì, questo è un problema che si conosce già da vecchia data. Recentemente c'era stata una consultazione promossa dalla Commissione europea che chiedeva consigli su come intervenire sul mondo delle etichette dei prodotti alimentari, e noi in un documento avevamo anche fatto delle proposte, cioè sostituire alcune edizioni che sono obbligatorie nell'etichetta con dei pittogrammi. spiegando chiaramente ai consumatori che significano con delle leggende, e quindi quelli tra l'altro avrebbero anche il pregio di non dover essere tradotti in più lingue, perché sennò sarebbero immediatamente comprensibili da tutti. Certo. Altra ipotesi potrebbe essere quella di distinguere tra le informazioni effettivamente essenziali e quelle di cui invece si può anche fare a meno, e quindi pensare a un sistema di etichettatura delle edizioni principali, quelle più importanti, e invece allegare magari al prodotto o mettere sugli scaffali dove il prodotto è in vendita un'altra forma di informazione. Potrebbe essere un libretto allegato, cioè un libretto, insomma un fogliettino all'interno della confezione che fornisce tutte le altre informazioni obbligatorie per legge, ma tutto sommato di meno immediato utilizzo da parte del consumatore. Un'ultima cosa, lei stava parlando appunto, penso, del provvedimento che allargherà l'obbligo di indicare l'origine dei cibi. Questo sì, pure ci vede abbastanza favorevoli, anche se poi bisognerebbe fare dei distinguo. Io veramente stavo per accennare un altro problema, sì, perché sarà fatta un po' di confusione a proposito dei profili nutrizionali, sì, perché in realtà erano due le questioni da affrontare e si è fatta un po' di commistione fra le due. Una era questa qui dei semafori, che era direttamente rivolta al consumatore. Poi esiste invece già in vigore un articolo del regolamento claims che mette dei paletti e stabilisce degli standard minimi di qualità attraverso i profili nutrizionali, al di sotto dei quali non è possibile concedere l'autorizzazione per i claims nutrizionali e salutistici. Si stava per bocciare anche quello, noi siamo intervenuti con una lettera ai parlamentari sensibilizzandoci sul problema. Lì non si tratta di informazione rivolta direttamente ai consumatori. Quei profili nutrizionali serviranno per gli addetti ai lavori, che dovranno decidere se concedere o meno a un prodotto alimentare di mettere in etichetta che fa bene alla salute. E allora lì chiaramente è importante che siano messi dei paletti, perché noi non possiamo dire ad esempio che un prodotto fa bene al colesterolo se poi per altro verso magari fa male alla pressione, certo, perché contiene troppo sodio. Ecco, quello, tra l'altro quell'articolo che si vuole abrogare era quello, è quello che tra l'altro vieta di utilizzare i claims nutrizionali e salutistici sulle bevande alcoliche, quindi è importante che rimanga, per fortuna, anche se di stretta misura. Bene. Non è passata la norma. Grazie a Claudio Lucchetta. Bene, ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Sentiamo ora l'ascoltatore Davide dalla provincia di Milano. Buongiorno Davide. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire su questa questione dell'etichettatura, perché io faccio parte di un'associazione che si chiama UPM, che vuol dire un punto macrobiotico, che si occupa da tanti anni dell'assicurare ai propri associati dei prodotti della massima qualità, a partire dalla selezione delle sementi e dall'entrare in convenzioni con dei produttori che garantiscono l'uso di sementi antiche che noi ci siamo fatti fornire dalla banca delle sementi del CNR e che poi abbiamo sviluppato e abbiamo moltiplicato. Quindi noi siamo in grado di mettere sul mercato delle sementi che assicurano una tipologia, per esempio, di riso di antica data che oggi non è più utilizzato dai comuni risicoltori, e tipi di frumento e di altri cereali, orzo e miglio, anch'esse assolutamente selezionate e prodotte da agricoltori selezionati che rispettano e che vengono periodicamente controllati dalla nostra associazione. Parlando di questa premessa, per dire che poi il tutto viene supportato anche dalle nostre etichette, sì, che vengono chiamate etichette pianesiane, sì, perché contengono questa etichettatura, contiene tutte le indicazioni del tipo di semente, dell'anno di semina, del tipo di cultura, della località della cultura, le quantità. Sì, insomma, abbiamo capito un po' tutte le, diciamo, le indicazioni. Ciclo, sì, okay. Tutto il ciclo. Bene. E guardi, lupus in fabula, come si dice, perché abbiamo con noi Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, quindi credo chi meglio di lui, ora parleremo anche di etichette, ma così può dare una risposta a quello che lei chiede, se c'è questa proposta di etichettatura. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, diciamo togliamo il lei, perché ci conosciamo da troppo tempo, quindi ti posso dare benissimo del tu senza così obblighi di lei. Beh, Paolo, io volevo chiederti questo. Bene, la vicenda del Parlamento Europeo sui semafori, sono stati bocciati. Quello che mi preme molto a me invece di più sapere se sicuramente andrà avanti invece l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti, di tutti i prodotti. Allora, innanzitutto grazie Davide, grazie a tutti gli ascoltatori, perché è importante fare chiarezza su questa importantissima norma che la plenaria di Strasburgo della settimana scorsa ha approvato. In sostanza, in prima lettura è passato il regolamento sulle informazioni al consumatore, che adesso segue il percorso della codecisione in Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e poi tornerà in seconda lettura. Prevediamo che il regolamento possa essere, diciamo, in vigore entro l'anno, entro i massimi primi mesi dell'anno prossimo. Cosa prevede? Innanzitutto, come hai detto tu Davide, il passaggio fondamentale che cui noi in Italia abbiamo molto a cuore è proprio il tema dell'origine in etichetta della materia prima, del prodotto agricolo. Un importante emendamento approvato nella Commissione Agricoltura è stato fatto proprio dall'Aula di Strasburgo, per cui possiamo dire che se questo provvedimento entrerà in vigore, così come l'abbiamo approvato in Parlamento, prevede la indicazione obbligatoria dell'indicazione d'origine della materia prima per tutti i prodotti freschi. Che vuol dire? Vuol dire formaggi, vuol dire latticini, vuol dire per esempio che la mozzarella blu che abbiamo visto questi giorni, se questa norma fosse in vigore, si sarebbe dovuto indicare da dove proviene il latte o le cagliate che hanno dato origine a quella mozzarella colorata, insomma. Chiamiamola colorata, sì. Esatto. Ecco, abbiamo bocciato i semafori, ne siamo anche abbastanza orgogliosi, direi tutto il fronte sud dell'Europa, Francia, Spagna, Italia, Grecia, tutto, indipendentemente dai gruppi politici, hanno votato contro. Perché vedi Davide, una cosa è dare le indicazioni al consumatore perché possa fare una scelta consapevole, da ciò la trasparenza con l'indicazione d'origine, altra cosa è indicare con un bollino rosso, un bollino verde, un consiglio all'acquisto, perché in qualche modo avrebbe condizionato l'acquisto. Non è quindi informazione, ma è sollecitazione verso un prodotto. Questo sicuramente non è una cosa che poteva andare bene, visto e considerato tra l'altro che la maggior parte dei nostri prodotti made in Italy di grande qualità avrebbero dovuto avere il bollino rosso, perché superiori al 30-40% sì, di grassi. Tra cui diciamo i grana, il prosciutto tra crudo, il lardo di Colonnata. Certo, il formaggio. Certo. Rimani con noi, sentiamo Marco da Latino, radioascoltatore. Sì, salve, innanzitutto complimenti. La domanda che volevo fare in buona sostanza è questa: di che cosa stiamo parlando? E cioè, tutto ciò che viene messo in commercio commestibile, ad uso commestibile, dovrebbe essere buono, a prescindere. Quindi se qualche cosa non è buono, al di là dell'etichettatura, dei semafori, eccetera, la fabbrica chiude, il proprietario va in galera e si va avanti, se no non avremo sempre delle confezioni con sempre più etichette, con sempre più annunci, con sempre più semafori, dove non si riuscirà a vedere che cosa ci sta dentro, perché tutto intorno ci saranno delle informazioni per il consumatore, ma a prescindere il consumatore deve sapere che quella roba è buona. È commestibile, se non fosse così guai. Marco, qui non si distingue tra buono e cattivo, qui si fanno altre distinzioni, cioè il discorso di contenuto di grassi, di zuccheri e di sali, quindi è diverso il discorso di concetto di buono e cattivo qui, diciamo che è assai diverso. Comunque grazie, numero verde 800 24 00 24. Voglio chiedere a Paolo De Castro una domanda un po' cattiva. Ci sono stati dei voltafaccia durante le votazioni, cioè alcuni partiti hanno deciso ultimo momento di votare contro, mentre prima si erano detti favorevoli. Cos'è successo al Parlamento europeo? Dunque, noi italiani, una volta tanto, con orgoglio lo dico, tutti i 72 deputati della deputazione italiana, di tutti i gruppi politici, con l'eccezione mi pare di uno o due. Tre, sono tre per ogni, esatto, uno per ogni partito. Esatto, perché sono eccezioni personali cui il giudizio lo lascio, diciamo così, a loro medesimi, insomma, non entro nel merito, però sulla delegazione di 72 che 69 abbiamo votato secondo le indicazioni che avevamo dato come gruppo del PD o gruppo del PDL, questo è molto importante perché va nella direzione di un gioco di squadra che dobbiamo fare, perché attenzione, qui non era in gioco dell'ideologia, qui c'era diciamo da difendere un sistema culturale di attenzione, di trasparenza nei confronti del consumatore. Noi non potevamo certamente dividerci su una questione così rilevante per il sistema agroalimentare italiano. Ti faccio una seconda domanda cattiva di riserva. Si è parlato di grande lavoro delle lobby, addirittura c'è il Corporate Europe Observatory, che dice che c'è stata una grande influenza delle lobby industriali, è così? Ma guarda, se c'è stata, così come l'ho letta anch'io, la notizia che dai tu, non ce ne siamo accorti. Certamente i deputati ricevono regolarmente, non in questa occasione solamente, ma in tutte le occasioni di votazione, centinaia di mail, e non c'è dubbio che avevamo mail di alcuni gruppi industriali diverse da altre mail di altri gruppi industriali. Sul punto specifico dei profili nutrizionali, da cui è nata questa confusa interpretazione circa la Nutella, se si poteva o no consumare, in realtà, come hai detto bene, non c'è nessun problema per la Nutella, né sarà obbligatorio indicare nel barattolo dell'importante azienda dolciaria italiana che nuoce gravemente alla salute. Però su quei profili nutrizionali dove abbiamo perso poi alla fine per un voto, per cui credo che si terrà conto del voto dell'Aula nel prosieguo dell'approvazione della norma, beh, in quel caso ci avevamo una spaccatura del sistema industriale europeo. Alcuni, come gli italiani, Barilla, come Ferrero, altre imprese erano contrarie, altre invece di altra provenienza, diciamo di altri paesi, erano a favore. Quindi è normale che ci sia stato un gioco di squadra italiano a favore del sistema industriale italiano, e noi lavoreremo ancora per correggerlo, però non diamo informazioni sbagliate. Bene. Perché comunque non ci sono rischi. Grazie a Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, grazie e a presto. Sentiamo Giorgio dalla provincia di Brescia, un radioascoltatore. Ascoltavo la trasmissione, sono in viaggio. Sì, mi dica. Intervenire, mi trovo d'accordo sulla questione dei semafori, perché potrebbe ingenerare, secondo me, confusione inizialmente. Volevo nel consumatore, il quale si troverebbe, diciamo, a seguire troppe informazioni, riguardo i componenti, se sono, diciamo, formati i vari prodotti da un monocomponente, secondo me sarebbe utile conoscere l'origine, per esempio nel caso delle cagliate o dei lattiero-caseari, o per fare un altro esempio i carciofini della Carcioghiotti, che vengono giudicati come prodotto composito in quanto c'è olio, c'è il grano di pepe o quant'altro, essendo composto non viene dichiarata l'origine del carciofo, che è la base principale, quindi riterrei giusto anche la specifica dell'origine del carciofo. Quindi senta, comunque sembra che il Parlamento europeo finalmente vada in questa direzione. In questo senso, come poi anche Zaia, infatti, ultimamente era, diciamo, pro almeno di questa prima selezione per giudicare, guarda, un prodotto che sia composito o meno. Fra poco sentiremo chi ha sostituito Zaia, il ministro Giancarlo Galan, quindi chiederemo a lui su questo appunto il suo parere e qual è la sua posizione. Grazie Giorgio di alcune specificazioni veramente importanti. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24. Con grande piacere io do il buongiorno al ministro Giancarlo Galan. Buongiorno ministro. A lei e a tutti quelli che ti ascoltano. Ministro, facciamo intervenire una radioascoltatrice che sta chiedendo di intervenire su una domanda, perché poi magari credo che possa rispondere anche lei. Margherita dalla provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno, una domanda veloce. Si potrebbe mettere le etichette della nata, delle mele, della raccolta delle mele? Perché io ho spesso l'impressione di mangiare una cosa molto vecchia. Bene. Come la farina mele diventa scura proprio senza succo, anche se presa dello stesso mucchio delle mele che sono in vendita. Grazie Margherita. Allora torniamo al ministro. Ministro, voglio allargare questa domanda, nel senso che vogliamo capire la sua posizione su, diciamo, le ultime del Parlamento europeo, quando ha deciso di estendere l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti anche, diciamo, a quelli che non erano stati fino ad oggi indicati, cioè a cominciare da quelli lattiero-caseari e quindi un po' anche alla passata di pomodoro e tutti gli altri. Lei cosa ne pensa? Beh, ne penso bene, finalmente anche il Parlamento europeo mostra di seguire l'indirizzo italiano, che è per una difesa della qualità dei prodotti e quindi dell'etichetta e quindi della riconoscibilità dei prodotti. Oltretutto mi pare che corrisponda a un diritto dei cittadini sapere da dove vengono i prodotti che mangia, da dove viene il latte con cui è prodotto la mozzarella, tanto per fare un esempio, che compra, sapere tutto quello che mangia. Quindi è un diritto del cittadino prima ancora che una norma. L'Italia sta andando avanti più speditamente dell'Europa, e io spero che la legge sull'etichettatura sia approvata in tempi rapidissimi, e credo che sarà così. E forse se diciamo quel latte con cui è stata ottenuta quella mozzarella che è colorata, che è diventata blu, avesse indicato così l'origine del latte, probabilmente si sarebbe potuto intervenire molto prima. Ma sa, lì ci sono anche problemi più gravi, di problemi di qualità, di sicurezza alimentare. Però diciamo che un cittadino dopo può anche scegliere di comprare una mozzarella tedesca fatta con latte tedesco, ma insomma è più facile, mi pare, che compri una mozzarella fatta con latte italiano magari in qualcuno dei formidabili caseifici che abbiamo in Italia. Ecco, ma corrisponde a un suo diritto sapere, ma può anche scegliere di comprare il prodotto, la mozzarella tedesca, ma almeno lo fa. Sì, probabilmente anche sulla passata di pomodoro si eviterebbero così di vedere passate ottenute con pomodori che arrivano dall'estero, particolarmente dalla Cina, quanto di pomodoro ne abbiamo tanto nel nostro paese. Posso spingermi più in là, questo vale per il pomodoro, ma vale per qualsiasi prodotto, vale per il prosciutto, vale per il formaggio, vale per la pasta, perché no? Sarà un diritto di chi compra un prodotto su uno scaffale sapere dove è prodotto la base, dove sono. Lo è stato e stiamo migliorando sull'olio d'oliva, ma dico, sarà un diritto sapere se l'olio che ho fatto, che compro, viene fatto con olive marocchine oppure toscane o venete o salentine. Sarà un diritto. Dopo posso scegliere anche di comprare il prodotto fatto in Spagna con le olive marocchine, ma almeno lo devo sapere. Senta, ha sentito questa nostra radioascoltatrice parlava della frutta, parlava appunto delle indicazioni di data della frutta, questo forse sarà impossibile. Questo io credo che sia impossibile per la data, perché è inutile nasconderlo, molta frutta viene raccolta anticipatamente e maturata. I nostri vecchi sanno benissimo che mettendo delle mele insieme a qualche altro tipo di frutta, l'altra frutta matura molto più rapidamente, in particolare i meloni, perché le mele emanano una particolare sostanza che accelera la maturazione. Ecco, secondo me lì è meglio fidarsi del rivenditore e vedere la frutta buona da quella vecchia si distingue. Io credo che ci dovrebbe controllare molto di più il pesce soprattutto quello che arriva dall'estero, perché in molte pescherie non c'è l'indicazione di provenienza, oppure c'è semplicemente oceano e non si capisce da dove arriva. Questo però è un'infrazione di legge, certo, le norme ci certo. sono, occorre farle rispettare, sì. Certo. Occorre, ormai c'è una consapevolezza sull'importanza di ciò che mangiamo larghissimamente diffusa, e quindi corrisponde a un diritto e a un dovere da parte delle istituzioni controllare che almeno che le leggi vengano rispettate. Bene, io la ringrazio, ministro Galan, a presto, grazie di essere intervenuto. Arrivederci, buona giornata. Grazie. Sentiamo Paolo da Roma, radioascoltatore, buongiorno Paolo. Pronto? Paolo, prego. Pronto? Prego Paolo. Sì, volevo dire, per quanto riguarda l'etichettatura, saranno tutte quante efficaci le metodiche eccetera, però io penso che finché l'Europa non dà anche una direttiva per cui in tutte le scuole, almeno le superiori di tutti i paesi, almeno europei, non verrà fatto un corso obbligatorio di educazione alla scienza dell'alimentazione, metabolismo, nutrizionali, contaminazioni alimentari eccetera, il rischio è sempre che si continuino a dare, è come dare un giornale ad un analfabeta, voglio dire. Poi si possono mettere tutte le etichettature che uno vuole, ma dovrebbe essere più largamente capito il significato di quello che ci sta dentro a quegli alimenti, a che cosa serve, a che cosa non serve, a che cosa fa male e a che cosa fa bene. Bene, grazie Paolo, però non bisogna rimandare tutto al Parlamento europeo o tutto a Bruxelles, cioè facciamo anche qualcosa in Italia, quindi diciamo che quanto lei sta dicendo forse sarebbe un problema per i nostri ministeri, non tanto per il Parlamento europeo. Sentiamo Augusto da Roma, ricordo numero verde 800240024, messaggi SMS 349-238-6666. Buongiorno. Buongiorno Augusto, mi dica. Ascolti, io innanzitutto sono molto d'accordo con la tracciabilità. Sì. Prima cosa. Seconda cosa, noi abbiamo l'Istituto Nazionale della Nutrizione a Roma, abbiamo l'Istituto di Parma, ma la cosa più importante secondo me è che più informazioni in qualunque modo, in qualunque sistema arrivano al consumatore, è sempre meglio di nulla. L'altra cosa importante, d'accordo, ci preoccupiamo dei grassi, ci preoccupiamo degli zuccheri, dei sali, ma ci dobbiamo preoccupare prima della nostra salute. Cioè chi immette nel mercato queste cose andrebbero perseguiti, poi ci preoccupiamo dei grassi, ma prima preoccupiamoci se fa male. La precedente chiamata di qualche minuto fa aveva ragione. Noi, io, lei, mangiamo queste cose e qualcuno attenta alla nostra salute, e questo è il fatto grave, non tanto se mangio più zucchero, cioè diamo una priorità a quello che è la nostra salute, e la priorità assoluta è quello che faccia male. Gli istituti ci sono, dovrebbero funzionare meglio in asse e quant'altro. La mozzarella blu è vergognoso vederla, non può andare bene così. Io la ringrazio, lei è veramente una persona squisita, e un po' uno sfogo questo. No, no, ma guardi, Pasquale, io Augusto, mi scusi, e volevo risponderle. Io sono completamente d'accordo con lei, però in un'etichetta non ci può essere scritto buono o cattivo o pericoloso per la salute. Cioè, se ci sono delle sofisticazioni, sicuramente devono essere bloccate precedentemente ad essere messe sul mercato. Questo purtroppo dovrebbe essere scontato, ha ragione lei, non lo è, perché in molti casi, e poi vedremo anche questo della mozzarella blu, poi abbiamo un esperto e magari ci faremo spiegare da lui il discorso di questo colore, di questo blu, però dovrebbe essere bloccato prima, cioè non dovrebbe neppure entrare sul mercato. Quindi è vero, la sofisticazione o il taroccamento dovrebbe essere colpito prima. Questo è perfettamente vero, ma non si può fare una caccia alle streghe, ha ragione, bisognerebbe che lo facessero gli organi competenti, ma non tanto gli organismi a controllo dell'etichetta o d'altro. Qui è un fatto di sofisticazione, quindi qui è un fatto di polizia di NAS, quindi è un fatto precedente. Grazie comunque al radioascoltatore Augusto da Roma, mi sembra, sì. Allora, abbiamo con noi un grande esperto di pomodoro, che è Pasquale D'Acunzi. Pasquale D'Acunzi è anche presidente del San Marzano, del consorzio della produzione del San Marzano, ed è un industriale del settore. Buongiorno Pasquale. Buongiorno Davide a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, ti ringrazio del grande esperto. Allora, Pasquale, vogliamo far chiarezza sulla passata di pomodoro. Oggi non è obbligatoria l'origine del pomodoro, è così? Ma intanto facciamo chiarezza, perché il consumatore deve essere informato, sì, e più adulto, e quindi più capace di poter scegliere. Sono d'accordo con voi. Però sulla passata la cosa non funziona proprio così, perché da anni noi abbiamo già una norma che prevede la passata con l'indicazione in etichetta da fresco o non da fresco, cioè prodotta da fresco e non prodotta da fresco. Quindi non può essere usata la materia prima cinese per produrre la passata se è un prodotto da fresco. Non è possibile questo, perché da fresco è la prima lavorazione, la prima cosa. Poi la seconda cosa è che il prodotto cinese, io voglio sfatare un attimo questa storia del prodotto cinese. Il prodotto cinese è un prodotto introdotto in Italia per larga parte da concentrati, e quindi non da pomodoro pelato, che è il nostro tipico pelato italiano, né da cubettato, perché non potrebbe essere rilavorato, ma solo con il concentrato. Il concentrato viene importato in temporanea importazione. Che significa? Diciamola alla gente. Significa importare del prodotto, materia prima, quando noi in Italia non ne abbiamo e siamo carenti, e riesportarla nei paesi terzi, non nei paesi europei. Quindi sul mercato italiano il prodotto cinese non ci può andare. Allora, diciamo anche un'altra cosa, a me è piaciuto un intervento di un radioascoltatore, che è pure quello di prima, che in effetti hanno detto: noi abbiamo la necessità che il consumatore abbia la certezza che il prodotto sia sicuro e di buona qualità. Io dico che questo è il dovere dell'industria, di chi produce. Consentimi che io faccia un plauso alla nostra squadra degli europarlamentari, non a quella di Lippi, perché è stata già eliminata, certo. Perché si è comportata un po' meglio quella degli nostri europarlamentari a Strasburgo, che all'unanimità con 69 voti, come diceva Paolo De Castro, ha fatto un gioco di squadra con una normativa importante. Però vorrei segnalare su questa normativa una cosa che riguarda proprio l'origine. Io segnalo che è stata approvata una norma nella quale il Parlamento ha chiesto alla Commissione un'apposita valutazione di impatto sull'indicazione obbligatoria di alcuni prodotti di origine, per esempio le carni, il lattiero caseario, cioè si vuole vedere quale impatto crea questa diciamo indicazione di origine generica e generale per tutti i prodotti. Perché questo? Perché dobbiamo smetterla di pensare ad una convenienza di parti, di lobby industriali o agricola. Noi dobbiamo invece avere la possibilità di fare una riflessione serena, più sicura, su cosa è possibile realizzare e su quali origini bisogna indicare. Perché, caro dottor Paolini, le devo dire con molta chiarezza, lo diciamo a tutti, che è vero che c'è una bontà nell'origine del prodotto, nell'indicare l'origine del prodotto, ma il Made in Italy particolarmente è valutato nel mondo anche per il suo processo produttivo. A me piacerebbe un giorno sapere che un prodotto viene da un certo paese, e va bene, su alcuni prodotti dove noi siamo leader, per esempio il pomodoro è un rafforzativo, dire che il pomodoro pelato è italiano è un rafforzativo per il consumatore ma anche per il nostro marketing, no? Mi piacerebbe anche sapere l'origine del processo produttivo. Bene, hai messo il dito su, sì, sicuramente, perché questo sta già avvenendo anche sul settore tessile, quindi sugli altri settori tutti del Made in Italy. Pasquale, io ti ringrazio perché sei stato molto chiaro, e quindi il processo produttivo potrebbe essere un altro tema ancora. Grazie Pasquale D'Acunzi, a presto. Grazie a te, ciao. Allora, ora abbiamo con noi un esperto di latte e un esperto di formaggi, Roberto Rubino, della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi. Non sono dell'università, buongiorno. Mi hanno scritto una cosa migliore. Tu sei un grande ricercatore, io ti conosco molto bene, quindi sei un grande ricercatore. Sei un ricercatore. Bene, Roberto, allora volevo chiederti, forse finalmente il Parlamento europeo darà l'indicazione dell'origine del latte. Tu cosa ne pensi? Io la penso un po' come il signore di prima. Devo dire che l'etichetta per me non è stata mai, secondo me, un grande problema, quasi un falso problema, nel senso che noi potevamo già farle prima le etichette, però nessuno le vuole fare. Prendiamo che c'è scritto sul formaggio, è fatto di latte, caglio e sale. L'etichetta peraltro non obbliga nemmeno a mettere i coadiuvanti, cioè il caglio e il sale, bisognerebbe mettere gli additivi e nessuno li mette. L'esempio della mozzarella blu ultima, la mozzarella blu è un banale difetto che deriva dal fatto che tutti usano l'acido citrico. Ora, l'acido citrico è un additivo, non è un coadiuvante, quindi bisognerebbe inserirlo in etichetta. Non lo mette quasi nessuno, cioè non solo nessuno ne ha parlato, ma pochi scrivono che c'è l'acido citrico. Quindi dipende dalla ragione quel signore. Il problema è il processo produttivo. Sì, va bene che è italiano, ma noi sappiamo che c'è del latte di grande qualità, ma del latte pessimo, in Italia come in tutto il mondo. Quindi io vorrei sapere se è fatto da animali al pascolo, se quegli animali producono poco latte. Ecco, i produttori che fanno dei grandi prodotti dovrebbero scriverlo in etichetta, invece scrivono latte, caglio e sale. E se poi pensiamo al latte alimentare, tutte le etichette sono uguali, cioè nessuno ha interesse a usare l'etichetta. È una storia che viene fuori ogni volta, però di fatto le etichette sono la cosa più banale. Se la eliminassero forse sarebbe la stessa cosa, perché non c'è nessuna informazione seria, cioè di processo, come dicevo prima. Dico così. Io voglio sapere se l'animale al pascolo, quanto latte fa. Io vorrei dire a quei produttori che i cui animali fanno poco latte, ma scrivetelo, perché quella è la chiave di lettura. Io subito lo andrei a comprare, non so se mi spiego. Invece così si compra al buio, l'etichetta non serve. Bene, grazie Rubino, chiaro come sempre. Sergio dalla Reggio Emilia, un radioascoltatore. Buongiorno Sergio. Buongiorno, io sono, guarda caso, visto che ho sentito solo l'ultima parte, però sono un produttore di latte, quindi sono un attimo in disaccordo con quello che diceva prima, perché sulle etichette credo che sia importante identificare invece proprio il processo produttivo, mentre la quantità di latte prodotto è relativa, perché poi è influenzata da tantissime cose. Ma parlava anche di processo produttivo Rubino, di tutte e sì, due sì, le cose. Sì, sì. Però insomma credo che l'informazione possa essere data a pieno titolo al consumatore, perché chiaramente è lui che consuma e che fa poi la redditività dell'industria o del produttore. Però io da produttore dico, abbiamo dei controlli per tracciabilità dall'USL, cioè in Italia abbiamo un vanto nei controlli che dobbiamo portare in giro non solo come made in Italy ma proprio come esempio, quindi anche parlando prima di etichetta, l'etichetta che deve dimostrare questi risultati arrivati che in Italia abbiamo raggiunti, credo che faccia la differenza anche nei confronti di altre culture di produrre che sono europee. Bene. Come mondiali. Ecco. Grazie Sergio da Reggio Emilia, Giuseppe da Roma, buongiorno, veloce perché ho un minuto solo, 30 secondi solo. Sì, mi spiace, siamo pochissimo tempo, io sono d'accordo con gli esperti che hanno appunto hanno verificato sul processo di produzione, me ne posso parlare di quello che succede un pochino a monte facendo l'agronomo, l'etichetta non deve essere l'obiettivo. L'etichetta è il risultato di un processo o di un'educazione anche alla comunicazione da parte del produttore, da parte del consumatore deve saper leggere. Esiste purtroppo un sistema che è per lo più non conosciuto dai consumatori, fatto di professionisti, fatto di persone per bene, fatto anche di lestofanti. Il problema è che dovrebbe crescere la cultura da parte del consumatore, questo avviene attraverso la comunicazione, per fargli capire cosa avviene dietro un prodotto agricolo, quindi il processo, e dovrebbe crescere anche la capacità dei produttori o di chi in qualche modo li rappresenta di innescare meccanismi che consentono questa crescita culturale. Bene, grazie Giuseppe, le devo togliere la parola. La ringrazio. Io vi saluto, buon weekend a tutti da Davide Paolini.